Palla Spicchi con Carlo Genta. Nuvolari e basso di statura, nuvolari e al di sotto del normale. Nuvolari e a 50 kg d'ossa, nuvolari ha un corpo eccezionale. Nuvolari alle mani come artigli, nuvolari ha un talismano contro i mali. Il suo sguardo è di un falco per i figli, i suoi muscoli sono muscoli eccezionali. Insomma, un omaggio a un grande appassionato di pallacanestro, un grande tifoso di pallacanestro e della Virtus Bologna, ci voleva. Lucio Dalla, domenica i funerali a San Petronio. Io saluto due suoi amici. Dan Peterson, ciao coach. Ciao ragazzi. E Oscar Eleni, penna storica del basket italiano. Buongiorno a tutti. Ieri meno che a Peterson. Meno che a Peterson. Ciao Oscarone. Un primo marzo maledetto, è morto Lucio Dalla, ma è morto un altro protagonista della pallacanestro italiana e tuo amico Oscar. Sì, mio Enzo Lefebvre. Esatto, è stato compagno di squadra. Anche mio allievo, devo dire, quando ho fatto l'allenatore alla Canottieri di Milano, nella squadra juniore allenavo lui e poi dopo è venuto a giocare in prima squadra. Era un personaggio interessante, divertente, coraggioso. E devo dire la verità, è stata una giornata pesante. Molti che mi hanno mandato messaggi, uno mi ha mandato un messaggio dicendo no, dopo Dalla anche Enzo. Effettivamente per noi, almeno per me, è stata una delle giornate più tristi, anche perché a due giorni dal mio compleanno, che coincideva con quello di Lucio Dalla. Mi dispiace per Peterson che non potrà festeggiare la mia di morte. Hai sentito? Coach, come hai conosciuto Lucio Dalla, tu che hai allenato la sua squadra? Come puoi immaginare, io sono arrivato in Bologna nel 73, lui era già sulla breccia con la famosa canzone Rotico Stomp, e per 5 anni di Pullman le sue canzoni erano proprio accompagnavano i viaggi, e poi ovviamente attraverso il mitico avvocato Porelli ho conosciuto Lucio Dalla, non posso dire come amico, però io conoscevo lui conosceva me, e lui era famosissimo, come hai detto perfettamente, come tifoso della Virtus, e lui ha composto, scritto anche la canzone ufficiale della Virtus, cioè, quindi era più che di essere lì proprio come Spike Lee per i Knickerbockers, sì. Lui veramente era a bordo campo per vedere quasi tutte le partite, io l'ho apprezzato moltissimo. Era il miglior playmaker vivente, no? Oscar Eleni. No, effettivamente lui scherzando diceva questo, quando scherzava con Binelli, con i lunghi, diceva se giocassi io playmaker e facessi io il pick and roll con voi sarei perfetto. Poi naturalmente giocava anche a pallone, poi, e nella sua famiglia, diciamo, professionale c'era Tobia, che è il suo road manager, non so cosa, se immagino che cosa voglia dire, comunque il suo road manager, che era tifoso invece di Milano, della Milano di Rubini, e anche della Milano poi di Peterson, quindi litigavano su queste cose. Poi sai, lui poi era nella città del grande derby con la Fortitudo, quindi non si sbilanciava troppo contro la Fortitudo, però era sicuramente di cuore, di fede virtussina, e l'avvocato Porelli effettivamente lo citava sempre in qualsiasi consesso internazionale, quando ha fatto il suo libro sulla Virtus, ha voluto dal, quindi era una cosa speciale, e ci mancherà la sua arguzia, il suo modo di fare e anche il suo modo di cantare, ovviamente. Coach, invece non ci mancheranno i quarti di finale di Eurolega che si sono disegnati ieri. Passa Siena, ma questo già si sapeva, mancava il timbro, no? Su quel certificato che è arrivato nonostante la sconfitta con il Real 90-102. Siena che giocherà con l'Olympiacos in un remake della partita dell'anno scorso. No. Devo dire due o tre cose qui, Carlo. Che uno, peccato che per differenza canestri anche Real Madrid, ma anche Milano e Cantù sono fuori, perché adesso che è finito queste 6 partite possiamo dire che per un millimetro alcune squadre sono fuori, perfino Real Madrid, e credimi, il Real Madrid che io ho visto ieri sera è stato uno spettacolo, cioè è stata la più bella partita che noi abbiamo commentato probabilmente in 3 anni che noi Sport Italia abbiamo i diritti di Eurolega, una partita a livello NBA, un'intensità, una difesa, peccato vedere una squadra perdere, però hanno veramente onorato l'appuntamento, e il Real ci ha messo tutto, cioè far 102 punti contro Siena è un'impresa, a Siena doppia impresa, però Siena ha sputato sangue fino all'ultimo, e se riescono a guarire in tempo per i quarti finali saranno a posto. Non sono tutti sani fisicamente, adesso c'è anche, manca un po' di benzina. Questo è un remake, anche questo è un refrain di Siena. Sì. Si arriva lì con i giocatori spremuti, acciaccati, incerottati, Oscar. Sì, diciamo che nella pianificazione perfetta di Minucci, proprio i momenti della crisi probabilmente gli hanno impedito, gli impediscono di avere l'aggiunta della pedina in più, perché il fallimento di Summers, quindi, che poteva essere il giocatore che spostava e che cambiava certi meccanismi nella squadra, e in questo momento si è visto chiaramente contro il Real Madrid nella più bella partita, come dice Peterson, che abbiamo visto, però a rimbalzo loro sono stati massacrati. Nel Final 8 e nel Final 4, se tu sei debole sotto canestro e se non sei in una giornata in cui centri sempre il bersaglio, serve il secondo tiro, serve il terzo tiro, e se lo prendono gli altri tu sei rovinato e la benzina finisce, come dice Gian. Loro in questo momento hanno qualche problema fisico, e questo problema fisico che si riflette su tutto quello che è lo spirito di una squadra che non ha mai preso 100 punti. Questa è la grande sorpresa, che non ha mai perso 3 partite in fila. Quindi adesso l'Olimpia di Milano è Emporio Armani. Sì, signori, perché prima dell'Olimpiaco c'è l'Olimpia, capito? Quindi prima dell'Olimpiaco c'è l'Olimpia, e quindi Milano in questo momento ha una carta da giocare, una carta psicologica importante, molto, molto interessante. Siamo tutti curiosi. Coach, se Siena-Milano domenica? Siena-Milano, per sottolineare quello che ha detto Oscar dei rimbalzi, il conteggio finale ieri sera era 46-20 rimbalzi per Real Madrid, di cui 20 in attacco. Solo Reyes ha preso 7 rimbalzi offensivi, e quindi, come ha detto Oscar, se tu non hai stat sotto canestro in Eurolega sei in difficoltà. In America lo chiamano standing height, cioè l'altezza quando uno sta in piedi, senza allargare le braccia, senza saltare, cioè la stazza che uno ha, e veramente il Real Madrid aveva questa ieri sera, e poi sono partiti con un quintetto alto, senza una guardia, mettere un'ala piccola come guardia, come Suarez, e sono andati forsenati proprio tutti al rimbalzo in attacco, tutti i rimbalzi hanno lottato come dei pazzi per rimbalzo ieri sera. Il piano della partita per loro era ovviamente questo. Coach, prima di salutarti ti faccio sentire il tuo cinguettio della settimana. Gioca Clint Dempsey per gli Stati Uniti stasera a Genova? Bene, forse faremo qualche tiro in porta. Buffone avvisato. Dempsey scores! Clint Dempsey puts the US ahead! What a shocker! Adesso anche sul calcio ti butti, coach? Guarda, e poi mi prendono in giro a Sport Italia, perché l'ho detto come scherzare, ho detto noi americani spezzeremo le reni e quelle storie lì, no, eccetera. E poi mi sono sbilanciato, ho detto finirà 2-0 per gli Stati Uniti con 2 gol di Dempsey, ovviamente 1-0 con un gol di Dempsey. La gente aveva pronosticato il Super Bowl per i Giants, che hanno vinto, pronosticato Love per vincere la gara di 3 punti che ha vinto. Adesso questo qui è Sport Italia, penso che io sia una specie di mago, mi chiedono l'estrazione della lotto di Bari adesso, cioè, ovviamente ho avuto grande fortuna, nient'altro. Solo nel basket non è in break uno. Grazie, quindi ho avuto grandi colpi di fortuna. Onestamente io temevo il peggio per gli Stati Uniti a Genova, io temevo veramente un 4-0, un 5-0, un 3-0, una cosa così. Ma il calcio è uno sport impuro in questo senso, perché è l'unico sport dove anche gli sfavoriti possono fare il grande risultato, ed è questa la sua meraviglia. Esatto, no? In altri sport è più difficile che la squadra sfavorita faccia il colpo. Coach, grazie. Ciao, sentiamo venerdì. Un abbraccio, okay. Ciao, ciao a tutti. Ciao, coach. Palla spicchi. Oscar Eleni, altra notizia dell'Eurolega, Turche tutte a casa, hanno fatto fuoco fiamme, hanno speso un sacco di quattrini, visto che hanno le Final Four in casa. Hanno un palazzo e nuovo. E guarderanno da spettatrici. È una specie di incubo, perché anche l'anno scorso il Barcellona organizzava in casa sua le Final Four, sì. E è rimasto fuori clamorosamente. Adesso ne vorrà più nessuno. Sì, infatti, adesso però si pensa di poterle dare a città che non hanno squadre, in modo tale che tanto si rispetta l'eguaglianza competitiva, perché effettivamente giocare a Barcellona una finale è diverso. Anche Parigi-Londra, perfetto. Esatto, Parigi-Londra sarebbe perfetta, soprattutto Londra dopo le Olimpiadi, quindi avrà tutto l'interesse, come Torino, ad organizzare. Solo Torino ha fatto questo autogol, Torino sì. Poteva organizzare a tre palazzi meravigliosi, e noi qua a Milano piangiamo, non abbiamo solo le macerie del Paralido. E quanto a questi quarti di finale, Panathinaikos Maccabi è difficile da leggere. Zesca Bilbao, grande sorpresa, ha eliminato di fatto il Real Madrid, battendo proprio Siena su quell'ultimo canestro. Siena Olympiacos si è detto, Barcellona Unix Kazan mi sembra una partita segnata. Mi pare che la grande favorita comunque di questa stagione sia quella che sta oltre la vecchia cortina, insomma. Esatto, CSKA ha rifatto le cose bene, poi mettendo dentro Kirilenko e tenendosele per tutta la stagione, quindi non lasciandolo andare via alla fine del lockout, ha fatto una squadra che quest'anno ha sbagliato una sola partita in Eurolega, è strutturalmente molto buona, gioca un pallacanestro semplice ma efficace, per cui io vedo favorito CSKA. Per quanto riguarda il Barcellona, deve rifarsi del dolore dell'anno scorso, della sconfitta nella Coppa del Rey. Però anche il Barcellona in certi momenti batte in testa, per cui bisognerà verificare. E quindi Siena può infilarsi in mezzo a queste maglie che sembrano strette, però c'è la possibilità. È vero che il basket rispetto al calcio dà meno sorprese se sei più debole. Però se hai una struttura di gioco importante, se la tua difesa funziona bene, allora gli altri possono avere delle difficoltà. Poi Zesca ha dei numeri talmente belli da essere perfino pericolosi. 15 su 16 le vittorie, tira col 57% da 2, col 41% da 3, scarto medio 15.2 nelle sue vittorie. Sembra addirittura troppo forte per non rischiare qualcosa. Hanno ritrovato l'atmosfera che era del CSKA storico. Si sono staccati un po' dal regime durissimo di Ettore Messina, sì. Hanno digerito il nuovo corso, adesso effettivamente sono una squadra completa, una squadra che è difficile da arginare in qualsiasi settore del campo, e sembrano loro i favoriti, ripeto. Però i russi, come i lituani, tante volte su partita secca. No, su partita secca e poi su trasferte dove magari sai, nessuno li controlla. Uno beve una cosa, uno beve un'altra. Come molti giocatori dell'NBA. Ho letto dei libri, il libro che ho letto, quello di Larry Bird e Magic Johnson. Sì. Noi eravamo il basket. Ci sono le storie, tutti gli allenatori dovrebbero leggerlo per capire, anche nel calcio, come l'invidia possa distruggere uno spogliatoio, come delle banalità una battuta di un allenatore, di un dirigente può far cambiare l'umore dello spogliatoio e quindi far odiare quello che prima era, certo. Quindi sono situazioni delicate, quello devono sperare quelli che non sono favoriti. Primo ascoltatore di oggi chiama da Perugia, Francesco, 800 24 00 24 per le telefonate. Vi ricordo i messaggi 349 238 6666. Poi sono curioso di parlare con Oscar Aleni anche di questa ripresa Olimpia Milano per sottrazione via Nicolas, equilibri trovati con Bremer. Ne parliamo dopo aver sentito Francesco. Buonasera, domanda per entrambi. La partita Siena-Milano domenica, secondo voi Siena, quindi Pianeggiani e il suo staff, la considererà, visto il vantaggio in campionato e visto il Tour de Force con l'Olympiacos che arriverà a breve, una partita come le altre, o spremerà ancora di più i suoi giocatori per provare a vincerla e lanciare un segnale inequivocabile al campionato? Io credo proverà a vincerla, Oscar. Credo proverà a vincerla per mille motivi. Perché è rimasto molto risentito per l'euforia milanese dopo la vittoria dell'andata, quando Gallinari fu decisivo. La società non vuole che gli altri si affezionino ad avversari di Siena che sembrano forti, per cui lui, poi soprattutto a casa sua dopo tre sconfitte consecutive, non credo possa permettersi una quarta. Di certo non spremerà la squadra pensando all'Olympiacos, sapendo che la classifica è abbastanza comoda, però se dovesse perdere per la seconda volta con Milano, poi i punti di scarto in classifica non sarebbero più 4, perché andrebbero a 2, e se Milano li raggiunge con 2 vittorie nel confronto diretto sarebbe poi lei prima in classifica. Quindi la situazione è delicata, ripeto, dopo 3 sconfitte non vedo Siena più arrabbiata di così. Sì. Milano può essere serena, deve soltanto misurare la distanza, come in una gara. Bravo, deve misurare la distanza. All'andata ha visto, forse illusa, che la distanza non fosse poi così, così elevata, ma erano altri tempi, altri momenti, altri giocatori. All'andata sapevano di mentire, magnificando sapevano la vittoria. Sapevano di mentire. Chi mentiva di più? Siena quando è venuta ha detto: noi possiamo anche perdere questa partita. Scariolo ha preso la palla al balzo e ha sfruttato. La seconda cosa importante che devono calcolare quelli di Milano è che battere Siena in questo momento vorrebbe dire tanto togliere il dubbio sulla Coppa Italia, perché tutti sono rimasti col dubbio sulla semifinale di Coppa Italia. Meno 18 alla partenza, meno 2 alla fine, con polemiche sugli arbitri. Tutto questo naturalmente è legato a una partita che già crea qualche tensione. Poi è venuta fuori la voce addirittura di Minucci a Milano, per cui certo. Sentiamo Mario da Milano. Sì, buongiorno. Mario da Milano, ma sono tifoso canturino. Sì. Mi diverto molto di più il Pianella che non al Forum. Al Pianello adesso, insomma. Vabbè, niente, in questo momento per i canturini è facile essere contenti, soddisfatti, anche se siamo fuori per un punto dalle Final Four. Due domande. La prima, vabbè, come vedete Cantù in previsione playoff campionato? Seconda domanda al dottore Leni: è lei che ha scritto quel libro dall'oratorio a Jura? No, l'ha scritto Stefano Olivari insieme a Specchia, hanno fatto questo libro e lo produce il sito dove scrivo io, che è Indiscreto. Ogni tanto appaio lì, ma non ho scritto questo libro. Poi sulla squadra su Jura non avrei potuto scrivere niente, sulla Onestà nemmeno, perché loro erano l'altra parte, erano l'altra faccia di Milano. L'altra faccia di Milano. Invece questa faccia, la faccia di questa Cantù è magnifica, è stata stupenda in Eurolega, ha chiesto molto, chiaramente, certo. Trinchieri a Cantù in Eurolega, credo che, insomma, sarà banale dirlo, ma il campionato di Cantù si può cominciare a leggere da ora. Esatto, adesso la mente è stata liberata. Sì. Hanno fatto un'eccellente figura, sono una squadra di valore europeo come lo sono stati per tanto tempo nella loro storia. Adesso queste due che si scannano, Milano e Siena, devono stare attente a non sottovalutare la squadra che sotto canestro ha le armi per infastidire sia Milano che Siena, che strutturalmente è fatta bene, e poi giocando anche ad Esio, se non i playoff, con 6.000 persone intorno, sarà un'atmosfera straordinaria, come hanno riconosciuto tutte le squadre europee che sono venute a giocare qui. Il fattore campo è stato un fattore determinante, il sesto uomo in campo. Per cui Siena, in questo momento Cantù fa bene a non parlare, a non entrare in nessuna polemica. Sai com'è? Butti un osso lì in mezzo. Vediamo loro due chi resta in vita su quest'osso. Poi dopo, con Cantù bisogna fare i conti. Certo, deve risalire immediatamente in classifica per mettersi in una posizione per avere il fattore campo più possibile. Questo è evidente. Hai pranzato? Pranzato in che senso? Hai mangiato oggi a pranzo? Sì, ogni tanto mangio. Allora, adesso ti faccio sentire col cuore più leggero. Invece, cosa ci racconta Gian Maria Vacerca, che ci presenta ogni settimana una partita, in questo caso non una partita ma le Final Four di Lega 2, attraverso i ristoranti, la tavola, la cucina, il cibo. Basket Chef. La Lega 2 ha scelto Bari per le Final Four di Coppa Italia, con l'obiettivo di ripetere i risultati favolosi in termini di pubblico interesse che ebbe la nazionale italiana. Grande idea, l'impianto è stupendo, la terra ospitale e la cucina fantastica. Adoro le tipicità della Puglia. Il pane, quello fatto con la farina di grano duro, le patate, acqua e sale, bello pesante e gustoso, in poche parole la scanata. Provato l'abbrustolito sulla brace con un filo d'olio nuovo, nato in quelle terre meravigliose. Oppure con la scanta, la ricotta fresca, arricchita di peperoncini e sale. Allora giochiamo. Giochiamoci un primo quarto con gli antipastini, si fa per dire, cavallo di battaglia della ristorazione pugliese. ceste di primosale ricotta, burrata di andere con i pomodorini secchi, insieme a un piatto di capocollo e una ciotola di olive di Cerignola, quelle DOP, della Daunia, verdi e giganti. Il secondo quarto è per la pasta. Non fermatevi alle orecchie con le cime di rapa rese internazionali da Lino Banfi. Provate la pasta asciutta con la scattiata, la peperonata con i peperoni verdi, oppure la tiella barese, una bomba cotta al forno con strati infiniti di pomodoro, patate, cozze, cipolla, riso e formaggio grana. Pazzesca. Oppure la pignata di riso, una bella pasta ai ceci da poveri, i cavatelli che affogano nel pomodoro. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Dopo l'intervallo, ne servirebbe uno lungo, modello NBA, dedicatevi a uno stinco cotto nel primitivo di manduria, oppure la carne alla brace, magari i torcinelli, l'interiore dell'agnello, che qui sono un piatto tipico. Oppure cambiate tutto e buttatevi sul pesce. I frutti di mare sono spettacolosi e il polpo te lo cucinano nella crosta di pane. Quarto e ultimo periodo, ma è dura, è l'ora del dolce. Chiedete un sanguinaccio oppure fatevi preparare in anticipo le zeppole di San Giuseppe, frittelle super caloriche cotte in olio due volte. In alternativa provate l'abbinamento cioccolato ricotta in una crostata oppure in un flan, meraviglioso. A dirigere questa partitissima serve ovviamente il triplo arbitraggio composto da tre grandi bottiglie, un rosso di Castel del Monte, un primitivo di Manduria e un rosso del Salento. Se scegliete l'annata 2007 non sbagliate mai. E allora mamma, butta la pasta! Ti ho fatto tornare fame, eh? No, mi hai fatto pensare al mio medico, perché il mio medico, se soltanto pensassi a questi piatti, mi farebbe arrestare, insieme a Bacirca del resto. Sì. Palla spicchi. Sempre qui con Oscar Eleni, penna storica della pallacanestro italiana, e con due ascoltatori in linea, Giacomo provincia di Treviso e Gian Antonio provincia di Como. 800 24 00 24 è il numero verde. C'è anche chi scrive, come Pippo da Piacenza: secondo me Siena si è risparmiata ieri per asfaltare Milano domenica e rimettere le cose in chiaro. Magari fosse così, ma io invece l'ho vista proprio in difficoltà, no? Perché no, ci tenevano a vincere con Real. Tornare a vincere dopo due sconfitte, sai com'è? Loro sono abituati a fare tutti i record, quindi. Dicevi quello di Treviso? No. Non lo so, sentiamolo. Giacomo. Eccomi qua. Eccolo là. Volevo ricordare il nostro vicepresidente Enzo Lefebvre. Sì. E un ricordo particolare di una persona che credo abbia dato tanto a tutto il mondo del basket in Italia e che comunque noi a Treviso dobbiamo solo ringraziare per quello che ha fatto e anche per l'uomo, lo spessore umano che aveva dentro di sé. E soprattutto anche in un contesto come quello che stiamo vivendo noi a Treviso adesso, con una società che a 30 giugno chiude. Lui e la sua malattia non ha mai fatto pesare, non ha mai fatto mancare l'appoggio alla squadra, alla società e alle varie trattative che sembra ci siano in corso. Un grandissimo personaggio e un grande uomo, decisamente. Volevo solo dire questo. Sì. Io sono più che d'accordo, oltretutto mi hai commosso, ma il vero problema è questo. Treviso, che deve riconoscenza a Enzino Lefebvre, deve riconoscenza... Cosa succede? Vai, non lo so. La riconoscenza a un grande personaggio del basket, però la città non si muove. Tutti avevano promesso che sarebbero intervenuti molto prima del 30 giugno per rilevare i Benetton. La società mi sembra che non costi una lira, salvo gli stipendi, salvo gli contratti che sono in essere. Per cui questo ritardo probabilmente l'ho amareggiato più del re, anche se venerdì scorso era ancora in ufficio, anche se ha combattuto 5 chemio, anche se ha fatto di tutto per portare questi nuovi proprietari nel basket trevigiano per continuare una grande storia. Purtroppo questo non si sta avverando e adesso il futuro è molto molto molto brutto, futuro brutto della Benetton Basket, del Palaverde, perché quando la Reier tornerà a Venezia, il Palaverde cosa ci faranno? Non c'è più la pallavolo, non c'è più il bar. Ma questo sembra ormai la malattia di tante città, e se andiamo proprio nel posto dove sono nati i migliori giocatori, cioè nel Veneto, nel Friuli, Venezia Giulia, Trieste, Gorizia, siamo andati l'altro giorno a Gorizia per l'intitolazione del campo a Pino Brumatti. Sì. Ma non nasce più un giocatore, non c'è più una squadra. Ho parlato con Giulio Iellini, grande del basket, mi ha detto: ma cosa torno a fare? Dove torno? A far cosa? Quindi c'è una grande sfiducia. Se si ferma anche Treviso, resta soltanto Venezia, perché anche Verona qualche difficoltà potrebbe averla, perché in A2 spendere i soldi per stare in A2 non va più bene. No, se, poi, certo. Se poi cambia la forma del campionato sta ancora meno bene, capito? Gian Antonio, provincia di Como. buongiorno. Vi chiamavo, mi aggancio proprio al discorso del signore Leni, ponendovi una domanda e poi umilmente dicendo la mia sull'argomento, sui numero di italiani da far giocare in campionato e sulle regole che credo la FIP stia mettendo in campo. Sì. No? Io penso che sia opportuno fissare un numero di extracomunitari, ma anche non piccolo, magari due o anche tre, spingersi a tre, e poi lasciare che i giocatori europei possano girare per i vari campionati. Questo sia per evitare che ci sia un McCaleb che gioca da Macedone, piuttosto che insomma tutte queste storture varie. Queste sono distorsioni, poi, certamente. Ecco, e poi anche se non truffe in alcuni casi. E poi magari anche per consentire ai nostri ragazzi italiani a sto punto di cercare mercato da altre parti, che vadano a giocare in Lega 2 in Spagna, piuttosto che se valgono vadano a giocare in Germania nel campionato, a farsi le ossa, a giocare tanti minuti e poi magari valorizzarsi e poter tornare a giocare in Italia, se è il caso. Sì, sì. Io francamente ho da Canturino ho visto dei campionati dove la mia squadra aveva 5 giocatori e c'era l'Alberto Rossini della situazione, gran cuore, ma francamente insomma talento non moltissimo. Io sono abbastanza della sua opinione. Io sarei per un campionato professionistico vero, da chiudere in poche regole, da chiudere in pochissime regole, per una liberalizzazione pressoché totale, no? Fissiamo eventualmente il numero di extracomunitari, controlliamo bene che i passaporti siano veri e non comprati da qualche parte attraverso giri strani, come purtroppo succede continuamente, e poi chi vale la legge del mercato. Io su questo argomento ho litigato con tutti gli agenti che ci sono in Italia, spesso anche con i giocatori italiani, perché la mancanza di competizione, se tu vai su una pista di atletica c'è il cronometro che ti dice se fai 10-2 o 10 netti c'è una bella differenza, qui da noi non si riesce a schiacciare il cronometro e a vedere le differenze, e loro non le vogliono vedere. Ci sono dei giocatori che accettano di fare panchina perché guadagnano di più. No, di fare in panchina in Serie A, non giocare, non provare niente, e questo secondo me è un errore grave che continuiamo a fare, e fin quando non li sfideremo, come dice l'ascoltatore, ad andare fuori, a misurarsi come fanno gli altri, a mangiare il pane duro dell'emigrante sportivo, non avremo mai dei giocatori che ci danno la forza, che danno alla nostra nazionale quella spinta che in questo momento manca, anche se adesso a Pesaro avremo una nazionale nuova con qualche nome interessante, però nomi interessanti che a livello internazionale secondo me non sfondano. Sentiamo Giorgio da Milano e poi vi faccio sentire io invece un'intervista. Giorgio, dica. Salve, buongiorno. Ascolti, io sono Giorgio, vivo a Milano ma sono originario di Caserta e dunque tifoso della Juve Caserta. Volevo solo sapere il vostro punto di vista sulla iniziativa della società Juve Caserta in merito a una raccolta fondi, ovvero il primo esempio di società sportiva che mediante un mediante un muro virtuale sta facendo un electronic fundraising per salvare la società. Io le dico, sono 30 anni più o meno che sento storie di azionariato popolare, non è mai funzionata una. Non so se Oscar se ne ricorda qualcuno. No, purtroppo è così, perché noi naturalmente ragioniamo con la nostra testa di appassionati veri, pensiamo che tutti gli altri abbiano la stessa idea, poi dopo quando però c'è da mettere la mano in tasca, Treviso è il primo esempio, nessuno si fa avanti. Lo hanno visto persino nel calcio questo, quindi è difficile pensare a un azionariato popolare. È vero che ci sono gli esempi spagnoli che potrebbero essere seguiti. Non siamo in Spagna, non siamo spagnoli. Primo, ma secondo, non abbiamo questi circoli sportivi per cui vale la pena. Certo. È come la mia carta di credito, un giorno mi hanno fatto spendere un sacco di soldi, ho chiamato e ho detto ma per quale, dice lei è iscritto al club, dico quale club e che vantaggi mi dà questo club, dice no ma veramente sa, poi, è così, tu diventi socio di un club per cosa? Senti, una delle storie più belle di questo periodo che arriva dall'America, sentita questa di Lin, magnifica, no? Magnifica. Ti ricordi anche anche Maxi Box, certo, il giocatore che era alto come questo tavolo, abbiamo un'intervista con lui, l'ha fatta Dario Ricci, parla di questi argomenti, sentiamolo. Siamo i Vatusi, siamo i Vatusi, gli altissimi negri. I'm happy for Jeremy. I mean, came on the scene at the right time that the Knicks needed him. They were searching for a point guard. Sono felice per Jeremy. È venuto alla ribalta nel momento giusto. Ai Knicks serviva proprio un giocatore come lui. Cercavano un play con tanti punti nelle mani e lui ha fatto tutto quello che serviva alla squadra in modo spettacolare. Ora l'obiettivo è andare avanti, continuare. Non deve fermarsi ora. Proprio ora che ha la possibilità di far vedere quello che è capace di fare, anche se le pressioni esterne sono sempre di più. È il suo momento. Deve saperlo cogliere. Non come accadde l'anno scorso, quando era a Golden State. Ha un'occasione che molti giocatori dell'NBA se la sognano, pur avendo qualità e capacità non inferiori. Per te, come per Jeremy Lin, la sfida più grande è stata proprio quella di cambiare un modo di intendere il basket. Nel tuo caso una mentalità per cui giocatori troppo bassi e piccoli non potevano avere successo e neppure pensare di far carriera nella Lega. Come ci sei riuscito? Absolutely. You know, mine had to be, you know, the old thinking, you know, that old trying. Hai proprio ragione. Ho dovuto battere i pregiudizi, una mentalità antiquata. Tutti volevano giocatori alti, prestanti fisicamente. Ho dovuto lottare per avere la mia opportunità e me la sono giocata con le armi che avevo a disposizione. La velocità, la reattività, la difesa. Gli giravo intorno a quei giganti e spesso gli rubavo il pallone. Alla fine, sempre più spesso, i miei allenatori mi dicevano: bravo, hai fatto un buon lavoro. Ormai i piccoli hanno un'influenza sempre maggiore nella NBA e sullo sviluppo del gioco. Il futuro del basket è nelle mani delle guardie? Well, I think any basketball gonna belong to point guards because you look at it, they got the basketball in their hair 80%, 85% of the time. There's always an extension of the coach. Ogni tipo di basket, di gioco, nasce dalle guardie e dai play. Ed è normale che sia così. Hanno il pallone in mano per l'80% del tempo. Sono un prolungamento in campo dell'allenatore. E è ovvio, per vincere ci vogliono anche i chili e i muscoli sotto canestro. Ma i piccoli hanno il pallone tra le mani. Sono gli allenatori in campo. Ed è questo che fa andare avanti la squadra. Questo era Maxi Box al microfono di Dario Ricci. Un peccato che certe storie non siano anche. Non escano con un po' di frequenza anche dalla nostra pallacanestro. Palla spicchi. Torniamo sempre con me in studio qui, Oscar Eleni, e c'è anche Flavio Tranquillo adesso che saluto. Ciao Flavio. Buongiorno. Buongiorno, c'è un ascoltatore di Biella che continua a mandarmi un SMS domandando se si parla di questa trade che potrebbe portare Bargnani a Boston. Ne sai qualcosa? No. Onestamente no. Ancora dalle parti di Biella. Sì, mancano 2 settimane. Sicuramente Boston è una di quelle che si sta muovendo molto. Altrettanto sicuramente se cominci a parlare con Toronto è chiaro che Bargnani è il primo nome che ti venga in mente. Non escluderei a priori che Bargnani si muova, ma che si muova tanto per muoversi, no? E quindi faccio fatica a immaginare una trade che comprenda Bargnani che possa riscuotere soddisfazione sia di Boston che di Toronto. Signori, chiedo di nuovo il vostro parere, ulteriore conferma domenica notte, la notte tra domenica e lunedì, su questo pianeta non c'è un giocatore più forte di Kevin Durant, Oscar. Sicuramente, dal mondiale mi sono innamorato di lui per il modo come giocava, per come viveva la vita nella squadra, per l'atteggiamento che aveva nei confronti di un allenatore che poteva anche snobbare come facevano gli altri, e quindi mi ha sempre affascinato. Poi vederlo vincere, vederlo giocare così bene, giocare insieme agli altri, mi piace, mi esalta molto più di giocatori che probabilmente fanno tremare i polsi ad altri, tipo Kobe Bryant, ecco. Flavio? In questo momento il giocatore più forte che c'è nella pallacanestro mondiale con la palla tra le mani, ma condivido buonissima parte di quello che ha detto Oscar, non con la palla tra le mani nel senso deteriore. Detto questo, io credo che però per vincere abbia bisogno di quello che hanno avuto i Jordan, i Bryant di questo mondo, ovvero sia non tanto un sistema di gioco, il sistema di gioco è una parte, ma quella convergenza allenatore, società come la chiamiamo noi, ambiente, che ti conduce a giocare tipo di pallacanestro vincente, che è una a qualsiasi livello e a qualsiasi latitudine, ed è quella di squadra e non quella dell'uno contro tutti. Cosa ti sei portato a casa dallo Star Weekend? Uno Star Weekend in cui, al di là dell'incoronazione di Kevin Durant, trovi un lungo come Kevin Love che vince la gara del tiro da tre punti. Ma tante piccole cose, anche tanto tempo perso, però bisogna sempre ricordarsi che è un'occasione di marketing, di business, e siccome i soldi li fanno girare è un po' difficile dargli torto, anche se il contenuto cestistico del weekend è veramente povero. Potrebbe essere interessante, per esempio, il fatto, lo hai citato tu, che Love abbia vinto la gara del tiro da tre punti. Pensare al basket come uno sport in cui se il lungo tira da tre punti è peccato perché allora non prende i rimbalzi, mi sembra un po' superficiale, un po' così ragionare in termini manicheisti, ragionare in termini di canoni, quando invece un lungo che sa anche tirare da tre punti senza abusarne, secondo me diventa un lungo semplicemente più completo e aiuta anche a giocare una pallacanestro più bella da vedere. Anche perché se fa sempre a canestro non deve pigliare i rimbalzi. E guarda caso oggi è l'anniversario della leggenda di Chamberlain, di quei famosi 100 punti, Oscar, 50 anni dopo. Sì, ho visto che tutti sono interessati a questa cosa, ci sono tante altre storie del basket che meriterebbero di essere raccontate. Io anche in questo caso, Chamberlain è stato straordinario, io preferivo Russell, perché sono nato sbagliato, probabilmente sono nato sbagliato. Invece volevo chiedere a Flavio, se è ancora sì, in linea, sì, c'è stata quella gara per gli esterni, quella lì mi ha interessato più delle schiacciate. È una cosa che si potrebbe fare anche al nostro Star, cioè voglio dire, è una cosa curiosa, interessante, o è stata una fiera? Ma sicuramente la gara delle schiacciate è al capolinea assoluto, nel senso che è priva di motivo di essere, soprattutto così. Se ci sono LeBron James contro Wade, contro Bryant, contro Howard, magari ha una tale portata, ma se ci sono dei giocatori tra virgolette normali, veramente è già stato fatto tutto quello che si poteva fare. Ripeto, io soprattutto il sabato, ma anche i primi 43 minuti della domenica, li prenderei per quello che sono, l'occasione di vedere questi giocatori, di parlare. È una festa, solo che è fatta in un campo invece che in un locale. Certo che in un campo noi ci immaginiamo sempre la pallacanestro vera, certo che chiamando quel popò di giocatori lì vorresti vederli giocare alla pallacanestro vera, però soprattutto in una stagione del genere chiedergli anche di giocare 48 minuti è impossibile, comunque è fuori da quella che è la mission di quei tre giorni, quindi temo che sia una guerra senza speranza la nostra impostazione, che credo sia corretta, e le loro esigenze, che corrette o meno, sono quelle che decidono. Sì, basket non richiesto in quell'occasione. Prima di salutarti, Flavio, dacci una lettura anche tu di Siena-Milano che vedremo domenica. Ma io non credo che sia necessariamente l'Armageddon o il giudizio finale, però è senz'altro un'altra di quelle occasioni in cui Milano va a Siena e l'idea di dire mando un messaggio a me stesso prima che agli altri diventa importante. Mi ricordo una partita della Milano di Buchi in cui Siena veniva da qualche sconfitta, aveva qualche problema fisico, era più o meno come questa, non era necessariamente decisiva per la classifica, anzi allora era ancora più già decisa la classifica, però Milano aveva veramente la possibilità di vincere questa partita e non la vinse perché Siena proprio non gliela fece vincere, nel senso che per testardaggine e per dire no, tu qui non vinci neppure se a me non serve e se sono messo male, la vinse Siena. Vincerla o non vincerla è importante relativamente, perché l'andata ha vinto Milano, però comunque è stato un semipareggio, però anche solo ripareggiare io credo per Milano sarebbe molto importante. Grazie Flavio, ci sentiamo domenica per parlarne. Saluti, volentieri. Ciao. Oscar, vuole dire qualcosa? No, sono d'accordo con lui. Sei d'accordo? La situazione è questa, siamo in una situazione di stallo, nel senso che... Ma dove è cresciuta Milano, secondo te? Solo nella... è sufficiente dire via Nicolas dentro Bremer, giocatore forse più adatto, o è cambiato qualcos'altro? Diciamo, Nicolas ha tolto all'allenatore l'angoscia di far giocare un uomo che la squadra sentiva poco, che il pubblico non riusciva più a sopportare, per cui c'è stato più serenità, sì, intorno. Bremer, come diceva l'ascoltatore di prima, no, come diceva Box, è il prolungamento del pensiero dell'allenatore in campo, quindi lui ha il filo rosso, sì, che può guidare una squadra. Che in teoria doveva avere Cook. Beh, ecco, Cook in questo momento sta prendendo più fiducia in se stesso, proprio perché non gli si chiede più di essere lui quello che guiderà la squadra fuori dalle secche. E poi questo Ayrton, che è ritornato, quindi con Ayrton e Bremer, sicuramente, come dice Scariolo, è una delle poche cose che condivido con lui ultimamente, effettivamente Milano poteva essere nelle otto dell'Eurolega, perché non avrebbe perso la partita di Istanbul, non avrebbe, sì, perso quella in maniera vergognosa, quella di Kazan, sì, e quindi voglio dire, c'è qualcosa nell'aria in questa Milano, però anche Milano ha dei dubbi sotto canestro. Se non gioca Rocca, rimbalzi se ne prendono pochissimi. Se non gioca Melli, la difesa è meno solida, meno forte. E Siena, dobbiamo valutarla. Siena è una squadra che ci ha abituato a grandi exploit quando è arrabbiata. Adesso, sì, è molto arrabbiata. Filippo da Udine, poi chiudiamo. Salve Filippo. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Sulla falsariga dell'ascoltatore di Treviso, un po' abbacchiato, che chiaramente vedrà sparire la gloriosa Benetton dai massimi campionati, volevo introdurre solo un semplice argomento. La crisi finanziaria ed economica che ormai attanaglia non solo l'Europa ma gran parte del mondo, si dovrà anche ripensare a quello che sono state spese folli effettuate anche negli ultimi anni, e i tifosi secondo me per alcuni anni dovranno, non dico soffrire, ma dovranno abituarsi a ripartire. Lei si riferisce all'intero movimento? Sì, soprattutto voi parlavate prima di Veneto e Friuli come grandi terre di, sì, basket. Io sono dirigente di una squadra di Serie B, sì, a Udine siamo ripartiti dopo tanti anni di gloriosa Serie A. Noi abbiamo fatto una squadra abbastanza giovane, abbiamo anche un giocatore tipo Nello Laezza, che lo ricordate sicuramente, a Verona, con tanti giovani interessanti, sì, però, i danari, sì, noi li abbiamo investiti, sono danari veri. Certo, ma il problema è quello, cioè l'anno prossimo si passa da 17 campionato zoppa a 18 per poi andare a 16, però se facciamo la conta delle società che pagano gli stipendi e che hanno le carte in regola per fare un campionato professionistico, non ti dico, Oscar, che basta una mano, ma non ne servono due. Beh, 12, almeno 12, lasciaci questa speranza. Teniamoci almeno questa speranza. Ha ragione lui, però, quando dice bisogna spendere quello che si ha, sì, tutti devono fare i passi, e quindi la gente deve abituarsi, certo, al prodotto che si può fare. Però ci devono essere dei dirigenti che hanno passione. Perché se la gente vuole entrare nel basket per avere un tornaconto economico, deve capire zero, ce l'avrà. Professore, dobbiamo chiudere, ma torna presto a trovarci. Grazie. Va bene, grazie a voi. Grazie a Oscar Eleni, Franco Piattelli in redazione, Pietro Lacorte in regia. Con lo sport ci sentiamo domani pomeriggio alle 5.